fiamma ultrice divampata la messe, in Filisteo le ceneri fumanti impastava quel canto, e ne facea mensa di lutto a deplorabil fame. Anzi sconfitta l'oste nemica, il Nazareno alcide con osso vile scriveva sull'ali della fama i suoi trionfi e le portava il grido all'ore stelle. Quando lieto Israele mercè di lui da servitù redento, e con simile concento di sue glorie intonar, e con simile concento di sue glorie intonar, voce festiva. Viva! Il rossore che le gote mi vena accusando. sento, oh Dio, che sento, a penoso cimento spiri, oh donna, il mio petto. Tanta bellezza inchino, si grand'uomo e sospetto, nemica io non ti bravo, amante, amante, io non ti credo. Misero, che farò? Resisto, o cielo? Cruda, cruda guerra bandisce al mio cor. Quel tuo guardo che vibra sarebbe, porta seco la morte e l'orror. Cruda, cruda guerra bandisce al mio cor. Quel tuo labbro che pace, che Espera, espera, espera. splendi, stelle, stelle, ogni or cadenti, abbia gar, basta noi mandarmi. E bella, raffrena, raffrena il dolor, e spera, e spera serena, serena la calma al tuo cor. De bella, raffrena, raffrena il dolor, raffrena il dolor. Capitano è reo, tanto puote l'incanto di maga allettatrice, chi ne tramutò di trionfante in vento. Ma pur del tutto estinto, il rimorso d'onore in lui non era, onde senso e ragione con rabbiosa tenzone presero combattenti a litigar, a litigar dell'alma in questi accenti. Sansone, dove trascorri dietro me la mortale? Che fior, che fior! Cessate ormai, cessate di lacerarmi il petto, in importuna ragion. Come mai volete, come mai volete, Dio? Io vi disponga, io vi disponga del mio cor, se sottratto al mio rigor, a contratto con amor già servitù. Come mai volete, come mai volete, Dio? Io vi disponga del mio cor, se sottratto al mio rigor, a contratto con amor già servitù. Io disponga, io disponga del mio cor, come mai volete più, come mai volete più. Così quel sol che gloriosi rai già diffusi all'universo avvenga, dentro infida marea va a tramontar, va a tramontar per sempre, per sempre. Così tanta fortezza, benché li ferri tempre, rompe, rompe del mar un seno in due teneri stagni. E tanta gloria beve in copa di latte il suo Hey!